Siamo in collegamento con Daniela Giordano per parlare dello spettacolo e short movie Di chi è la terra, che sarà al Teatro Vascello il 31 maggio. Daniela, ben trovata. Ecco, trovati a tutti. Sì, in effetti questa è un'occasione un po' particolare perché al Vascello il 31 ci sarà la possibilità di vedere lo spettacolo dal quale è germogliato prima il rap come pezzo a sé stante e poi lo short movie, il cortometraggio, insomma, che andremo a girare, iniziamo le riprese l'11 di giugno, quindi siamo in dirittura di partenza. Diciamo. Perfetto. Allora, raccontiamo intanto di cosa si tratta, come lo presenteresti? Allora io lo presenterei come sicuramente uno spettacolo surreale, dove quello che ascoltiamo e vediamo sono i punti di vista di un Checco di Grano, di una Pannocchia e di un sacchetto, un sacchetto di quelli della spesa, proprio un sacchetto. È uno spettacolo che è stato scritto a quattro mani insieme a Michele Citoni, Danila Massimi e Marco Veruggio, quindi insomma ci sono stati molti contributi importanti, diciamo, per Sì. raccontare questa storia, che è una storia molto particolare perché parliamo di land grabbing, parliamo di trappole della green economy, parliamo di ingiustizia sociale che deriva proprio dalla green economy, cioè da qualcosa che noi riteniamo buono e necessario. Quindi diciamo è un punto di vista che cambia molto l'ottica, c'è tanta musica, lo spettacolo è uno spettacolo come insomma sono un po' sempre gli spettacoli che facciamo con Danila, parliamo di cose molto serie ma con molta ironia, con gioco, per le persone di entrare dentro. E quindi di riflettere, Sì. ma Certo. senza appesantirle, diciamo, con delle lezioni frontali. Ecco. Sì. Vedete, la questione centrale è quella dell'acquisizione di terre da parte delle grandi corporation o addirittura di stati che ne fanno poi quello che vogliono. Anche in altri continenti questo succede. Questo diciamo che succede in alcuni continenti, soprattutto i continenti c'è terra, soprattutto dove c'è molta terra, difficile nei continenti che più soffre di questo fenomeno, che letteralmente è, la traduzione è accaparramento di terre, Sì. e quindi è l'Africa, con quasi deportazioni di intere popolazioni, con perdita di diritti, di identità, di sussistenza, impoverimento, e tutto questo diciamo è fatto nei termini purtroppo della legalità, Sì. perché gli accordi in realtà formale sono degli accordi legali, infatti sono fatti in massima trasparenza tra stati e multinazionali. Certo. E quindi insomma è una situazione un po' spinosa e difficile, no? Da gestire. Cosa si produce in queste terre? In queste terre si producono in grande quantità cereali che però non sono finalizzati al nutrimento umano né animale, ma vengono venduti sui mercati per diventare materia prima per la produzione di bioplastiche e biocarburanti. O anche per gli allevamenti di bestiame Intensivi, diciamo. intensivi, Sì. certo. Senti, questo sottotitolo fa pensare a uno spettacolo adatto a tutte le età. Questo è uno spettacolo sicuramente adatto a tutte le età, tra altre cose noi abbiamo anche nel nostro portfolio una lunga stagione di rappresentazione di questo spettacolo anche per giovani, molto giovani nelle scuole, abbiamo fatto dei bei percorsi, con, devo dire, una risposta anche dal pubblico dei più giovani, quindi io lo dico anche agli adulti che non sanno dove lasciare i bambini la sera, possono portare i bambini a teatro che gli fa bene alla salute in ogni caso, invece di stare davanti alla televisione o davanti al telefonino, e per sentire raccontare una storia che è una storia di un'ora, ripeto, con molta musica. Daniela Massimi è una polistrumentista, anche cantante, con la quale lavoriamo in duo ormai da 5-6 anni e abbiamo una serie di produzioni che ci vedono insieme. Questo qui, diciamo, della trilogia, noi abbiamo fatto una trilogia che riguardava le donne, l'ambiente e il lavoro, è il secondo degli spettacoli. Per quanto riguarda il film, beh, voglio dire che questa è una cosa per noi importante, per chi ci ascolta e chi volesse anche sostenerci, volesse entrare, far parte di questo altro progetto. Abbiamo in attivo una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso, basta andare sulla categoria cortometraggi film e cercare Di chi è la terra. Ci trovate e se ci sostenete anche con piccoli contributi, noi siamo molto contenti, vi ringraziamo. Benissimo. Invece per lo spettacolo c'è qualche riferimento web, pagine Facebook, siti internet? Allora, sicuramente si può andare sul sito del Teatro Vascello, noi siamo al Teatro Vascello, ricordo il 31, che è un giovedì alle ore 21, all'interno di una rassegna di teatro contemporaneo che si chiama Exit e che è arrivata al 10° anno ed è una... L'abbiamo già presentata con uno dei curatori, Esatto, quindi insomma è una rassegna importante, noi chiudiamo la rassegna il 31 perché è l'ultimo giorno. Anzi, in questi giorni andate anche al Vascello a vedere gli altri spettacoli, perché sono tutti spettacoli che meritano moltissimo. Benissimo. Tutti gli spettacoli presenti nella rassegna. Bene. Allora, Daniela, io ti ringrazio, un abbraccio e ricordiamo Di chi è la terra, ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto al Teatro Vascello a Roma il 31 maggio. E a questo punto ci diamo appuntamento anche per il film, ci sentiremo più avanti. Sì, grazie. dell'apertura e dell'invito e non vediamo l'ora di venirne a parlare. Un abbraccio, a presto. Grazie, un abbraccio, a prestissimo.